Buonasera, rieccoci qui. Buonasera. Rieccoci qui. In realtà non è che ci siamo spostati poi più di tanto. No, qualche centimetro, dai. Sì, dall'altro tavolo a questo tavolo. Cominciamo chiaramente... mi sono perso. Ecco. Ah, che è successo? Il filo. Stavo pestando il filo, mi facevo male. Il filo, ci siamo tirati il filo da soli, dai. Ok, cominciamo con la sigla. È la notte giusta. E ne verranno altre. E altre ancora. Deve succedere. Miami è una città fantastica. Adoro la cucina cubana. I panini al maiale sono i miei preferiti. Ma ora ho fame di qualcosa di diverso. Ok, yeah. Eccoci qui in diretta. Totally happy day. Allora, siamo in una formazione un po' ridotta questa sera. Vabbè, ma io sto ingrassando, quindi... Ah, quindi facciamo più o meno pari. Sì, ma ci siamo. Quello tu l'hai visto mai ballare a Piero? Madonna, no. A me fa paura. Ah, sì? Cazzo, un folletto. Io volevo la pentola d'oro alla festa di così radiocicletta. Però mi sono tutto che saltava. Cioè, ma che è? È Piero che sta sfiorando la luce della luce. Ma cosa c'entra col suo peso? È perché leggero e zompetta praticamente. Ah, ok, benissimo, perfetto. Senti, allora siamo soltanto io, Spatch. E io, tu, Seba. Seba, che sempre sono con la S, però. Sì. Funziona meglio. Spacciamo un po' Seba, diciamo. E di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Parliamo di... Allora, abbiamo detto la puntata borderline perché voi avete la vostra, diciamo, etica professionale, il vostro, diciamo, codice d'onore, i Simpson. Ragazzi, i Simpson non sono una serie TV, assolutamente. Sono un fantastico cartone animato... Mm-hmm. E per me il miglior modo per ridere nella mia vita sono i Simpson, ragazzi. Cioè i Simpson. Cioè, cosa vuol dire il miglior modo per ridere? Cioè, quando sono felice, rido con i Simpson. Okay. Quando sono triste e metto i Simpson, rido come se fossi felice. Cioè, praticamente annullano ogni effetto negativo nella mia vita perché mi fanno morire dalle risate. Perfetto, benissimo. E poi c'è tanto dentro, secondo me, non ci sono solo le risate, c'è tanta roba dentro i Simpson. Ragazzi, i Simpson, in particolare roba dalle prime 10 serie, che alcuni dicono le migliori, vabbè. Vabbè, quindi facciamo i Simpson 1.0. 1.0, esatto. Benissimo, cominciamo con... La sigla dei Simpson. Ok. The Simpson. Un rutto in un barattolo non è una ricerca scientifica. Wow, grandi, fantastico. Una bella puntata di Simpson. Tra l'altro, Seba, dicevi fuori onda, questa è proprio la puntata? Questa è la sigla, quella lì fatta in grande stile, praticamente. È la sigla vecchia, ricordiamo. No, ma quello che hai detto fuori onda. Questa è proprio la puntata? La puntata in che senso? Me lo sono scordato. E vabbè, niente. Qual è? Che cosa ho detto? Wow! Non ho capito. Vabbè, è fatto così. Era divertente da sentire in radio. No, è molto, molto... Ah, oddio, qua siamo già partiti, senza sì, volere. No, ok. Praticamente... Adesso noi mandiamo dei fantastici e bellissimi spezzoni dei Simpson dalle prime 10 serie, mentre parliamo. Allora, parliamoci chiaramente, è delle canzoncine, va bene? Okay. Quindi canzoni e spezzoni. Perché praticamente i Simpson sono strapieni di musica, non solo la sigla è una, secondo me, delle sigle più belle. Ma prima di cominciare a parlare e vedere le spezzoni, se puta caso non succederebbe mai nel qualcuno mondo, non sa niente dei qualcuno Simpson. Non sa niente dei Simpson, in due frasi, cosa sono i Simpson? Allora, i Simpson sono un cartone animato ideato da Matt Groening, ma non solo, anche da Castellaneta e dall'altro, da Sam Simon, mi pare, che sono praticamente quelli che scrivono le storie, okay, che hanno un processo di scrittura strano, poi magari ne parliamo dopo. Che la prima puntata è stata trasmessa nel 1990, non mi ricordo il giorno, ma comunque la prima serie è molto particolare. Già dalla seconda un po' si distacca, diciamo, dallo stile molto, come dire, un po' pessimista e strambo iniziale, praticamente anche i disegni erano molto diversi. Parla di una famiglia americana. Sì. È ambientato in una città che si chiama Springfield, che Springfield esiste in America, ma non è quella città. Ma quante ne esistono di Springfield? Più di uno, no? Però praticamente la cosa bella è che durante tutti i Simpsons, durante tutte le 22 serie, ci sono sempre uno sketch, una gag relativa, cosa dicono, addirittura il 17 dicembre del 1989. La prima puntata del 17 dicembre. Praticamente ci sono sempre riferimenti, fanno sempre delle gag su dove è Springfield, praticamente, sempre in maniera molto celata, praticamente. Insomma, la storia di una famiglia, padre, sì, madre, aiuto, padre, madre e tre figli, che sono appunto due bimbe e una bimba, Bart, Maggie e Lisa. Due bimbe Maggie, e una bimba. Due bimbe e un bimbo. Ok. E appunto Lisa e Maggie, e poi Bart, che è quello più grande, Lisa è quella intermedia, e Maggie è quella piccolina, che insomma ancora stiamo aspettando la sua prima parola, anche se in realtà in un'altra dell'ultima puntata l'ha detta la prima parola. Spoiler. Vabbè, che vuoi spoilerare, cioè, e non crescono questi qua. Sono sempre, cioè, sono alla quinta elementare, alla quarta, alla quinta elementare, da sempre praticamente. Ma forse perché li bocciano. No, Lisa è intelligentissimo e quindi non la bocciano mai. No, insomma, questa bellissima famiglia, Homer, Marge, Lisa, Bart in ordine di età, Lisa e poi Maggie e tanti altri personaggi che non sono personaggi di contorno, quasi mai, secondo me. E la storia appunto di questa famiglia, tipica famiglia americana, padre sovrappeso, madre casalinga, figlia intelligentissima, figlio monello e bimba, classica bimba che sembra che non conta niente, anzi Homer si dimentica spesso il nome. Una volta in una puntata praticamente erano in tribunale e gli hanno detto: ma lei che ne pensa? E lei non considera neanche sua figlia Margaret. Margaret? Chi è Margaret? Ah, Maggie, giusto. Tipo così, quindi insomma... Homer ha i suoi accessi d'ira, i suoi, diciamo, eccessi d'ira, che strangola sempre Bart. Insomma, c'hanno tante piccole particolarità che è veramente impossibile, come dire, riassumere in poche parole. Una famiglia americana in una città americana piena di tanta gente americana e non solo, e tante risate, tante storie, tante cose da dire, secondo me. Perfetto. Sui Simpson. E quindi mandiamo uno spezzone. Mandiamo il primo spezzone, ce lo contestualizzi un attimo. Allora, questa è una puntata dell'ottava serie, che si chiama Homer contro non so quale, il quindicesimo emendamento, una cosa del genere. Che vabbè, è quella che parla del barone Birra. C'era praticamente allora, per dei guai era tornato il proibizionismo, o meglio non era mai stato abolito a Springfield, si scopre il proibizionismo, e Homer, che è la sua ragione di vita, una delle sue ragioni di vita è bere la birra, in particolare. Quale si birra? La birra Duff, che poi l'hanno fatta davvero in realtà, vabbè, a prescindere da questo. L'hai assaggiata? No, non io ci l'ho penso assaggiata, neanche. Fa schifo. Ovviamente. Schifo. Però è bello, a caso la birra Duff. Come disse Homer in una puntata, dammi una birra diversa. E c'è questa birra, la parte, diciamo, la birra danese della Duff. È buonissima, chissà questo ingrediente segreto che gli dà questo sapore. E praticamente mettevano i cani a bagno nella birra. E quello si vede che assaggia la birra e fa: aggiungete più cane. È buonissimo. Insomma, praticamente Homer si trasforma in un contrabbandiere, si fa un bel po' di soldi, fa la birra, cioè recupera la birra nascosta e la rivende praticamente, e gli danno appunto questo pseudonimo di il barone birra, e chiamano per contrastarlo niente proprio di meno che quello là che sconfiggeva praticamente, quello del film JFK fatto da... Come cavolo si chiama? Da quello che fa non Robin Hood. Aiutare. Vabbè, comunque... È Little John. Lupo Alberto, esatto. Sì. Comunque, la sua nemesi è il barone birra, e lui è praticamente il poliziotto duro che vuole, diciamo, risolvere la situazione. E ne vengono fuori delle gag completamente assurde. Inizia praticamente che Homer sta facendo, dato che la birra è finita, quella che lui contrabbanda, sta creando alcolici e birra da sé in casa, con delle esplosioni assurde di distillatori, cose. E all'oscuro di tutto sono il resto della famiglia, tranne Bart, ovviamente, che sta collaborando. Ok. Buon ascolto a tutti e buono spezzone a tutti. Aspetta un momento, mi sono dimenticato di vedere se c'è via libera. Oh, sicuramente è libera, andiamo. Birra? Posso spiegare, Marge? Ti prego, lasciami spiegare. Ma perché non mi lasci spiegare? Sei tu quello di cui parlano i giornali, quel misterioso barone birra che fornisce Springfield di alcol. Dimmi come riesci a farla franca. Posso spiegare, ricordi? Riempio le palle con la birra trovata nella discarica e poi le tiro al bowling e una rete di tubature sotterranee le fa arrivare da Bo. Papino, sei proprio un genio. Mamma! Beh, è vero, da quando lo conosco questa è la cosa più geniale che abbia fatto. Sta solo infrangendo una stupida legge di 200 anni fa. È davvero stupida, Marge. Guarda tutti i soldi che ho guadagnato. Oh, mamma, il proibizionismo sarà pure impopolare, ma è una legge. Noi abbiamo la divisa. Questa è la seconda parte ambientata nella taverna di Beau. Apri, Riccetto. Questa è una retata. Questa è una retata. Riccetto? Va bene, va bene. Io proprio non capisco cosa vi aspettate di trovare in un semplice negozio di animali. Negozio d'animali, eh? Beh, ho solo una domanda da fare. Che razza di negozio di animali è pieno di bifolchi e assordante musica jazz a luna di notte? Sì. Già, è il miglior negozio di animali della città! Va bene, ma ricordatevi, gente. Le tartarughine e gli alligatorini potrebbero sembrare animali domestici, ma crescono. Andiamo, ragazzi! E questa è la scena finale dello spezzone adesso. Poverino Barney, che è rimasto ingranato negli ingranaggi. Quegli ingranaggi laggiù fanno male. E qui c'è lui disperato, il poliziotto è fatti prenderò, Barone Birra, dalla... Barone Birra, sei là fuori da qualche parte. Dalla panoramica. Io ti troverò, lo giuro. E invece sì. Cioè, direttamente da casa, praticamente. Cioè, fantastico, cioè, veramente fantastico. Questa puntata è veramente geniale, veramente stupenda. Senti, cerchiamo di dire qualcos'altro sempre dei Simpson. Altri personaggi famosi e importanti dei Simpson. Allora, a parte quindi la famiglia, ci sta il nonno Simpson, il papà di Homer. Che sempre famiglia è. Ricordiamo Homer, che si chiama Homer J. Simpson, e tutti pensano, possono pensare che J è il diminutivo di qualcosa. In una puntata lui scopre che J è il diminutivo di J-A-Y, quindi di J. Cioè, Homer J. Simpson. J, proprio, sì. Cioè, proprio J. Sì, è un... cioè, Matt Groening lì è stato un genio, secondo me. Che lui, quando lo scopre, è proprio contento di averlo scoperto, ma non era cambiato nulla, perché sempre Homer J. Simpson si chiama. Insomma, beh, poi ci almeno sta... può firmare in maniera estesa. Assolutamente. Poi ci sta il papà, Abe Simpson, la madre che... insomma, è coinvolta in varie puntate, quindi non vi dico niente della mamma. Poi ci stanno... Spoiler. Esatto. Ci stanno le sorelle di Marge, che sono Patty e Selma. Sì. Il mitico vicino di casa di Homer, che è Flanders, e famiglia. Sì. Flanders, che sarebbe Ned Flanders, Maud Flanders, Rod e Todd, che sono i figli. Poi ci stanno i colleghi, ci sta il signor Barnes, che è il datore di lavoro, malvagio e ricchissimo di Homer, il capo della centrale nucleare, Smithers, che è il suo, diciamo, leccapiedi. Okay. E poi ci stanno i mitici colleghi di Homer al lavoro, che sono Lenny e Carl, che lui si dimentica sempre chi è quello nero e chi è quello non nero. Cioè si dimentica, sbaglia sempre i cognomi. Sì, che lui... un po' come Paccio, che si sbaglia sempre. Sì, è bello che si scrive nella mano, si scrive tipo, che ne so, Carl uguale black, Lenny uguale white, fa, e lo guarda e fa ciao Carl. Praticamente. Dopodiché ci stanno Bo, o anzi nella serie originale si chiama Mo, che è il barista che gli rifornisce alcolici, e il suo, l'amico migliore di Homer, che è Barney Simpson. Ma qui c'è arrivato qualcuno. Aspetta, un attimo. Salve a tutti, salve, sono tornato, sono rientrato. Ciao. Clap, piacere di sentirvi. Ecco anche Piero. Quindi sei arrivato, vuol dire che la macchina è sana e salva. Ci siamo? È vero. Che c'è, Presidente? Presidente. Ho portato cibarie. Bravo. Hai fatto bene. Vorrei sottolineare un attimino il fatto che prima stessimo sfottendo Piero per la questione dell'aeroporto. Perché? In che senso? Ero lì a fare un corso d'aggiornamento per i miei studi. Certo. È quello che abbiamo detto in radio. Proprio la stessa cosa. Quello, vero? Sì, ci hai levato corso, le parole di bocca. Di aggiornamento, tra virgolette, di studi, molto tra virgolette. Ecco, poi mi dite, perché io il podcast poi lo voglio sapere cosa avete detto con precisione. Ma tanto il podcast di monoserie non esiste. Vero. Porca miseria. Podcast miseria. Praticamente stiamo parlando della... Marco? Scusate, visto che sono proprio così senza cuffie, senza nulla. Il Milan è uscito fuori dalla finale di Coppa Italia, e diamo queste informazioni sportive per chi si fosse messo all'ascolto solo oggi, avesse dimenticato ieri tutto il giorno il computer, la televisione, la radio spente. E quindi invece l'Inter ha avuto accesso alla finale con un flebile pareggio, che flebile, bellissimo, Benissimo, e dopo queste informazioni sportive torniamo all'argomento di cui stiamo parlando oggi, che è una cosa gialla. Ho visto un giallo su Facebook, di cosa stiamo parlando? Io gli abbasso il microfono. Vai. È morto. Cioè la cosa fantastica, non ho controllo su nulla da questo tavolino. Totally no control. La cosa fantastica è che scassa, cioè si è gasato troppo. Bombe bauli. Si è gasato troppo. Soffice, direi. Cioè la stazione nuova della radio l'ha gasato veramente troppo. È fighissima, ragazzi, è grande, si può urlare. Che cosa volete di più? Allora, io direi una cosa. Mandiamo un brano. Mandiamo un brano, sì. E tanti altri personaggi che stiamo qui a elencare, dei Sims e so troppi. Allora, mandiamo un brano, che brano mandiamo? Mandiamo dalla puntata Omer Palooza, che ci stanno un paio di artisti, in quella puntata di Cypress Hill con Insane in the Membrane. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Going insane. Yo, rientriamo dentro, ragazzi. Rientriamo dentro. Che qui. C'è tanta roba da mandare per ridere un po'. Ok, allora. Dicevamo un po' di personaggi. Di personaggi. Ce ne sono tanti. Quelli principali, dicevamo, vabbè, la famiglia, vabbè, tanto più o meno me li ricordo, sono sempre gli stessi. Praticamente la famiglia Simpson, l'abbiamo detto, Patty e Selma, le sorelle di Marge, Abe Simpson, il nonno, il papà di Marge, sempre parcheggiato nella casa di riposo. Poi dicevamo gli amici Lenny, Carl, Barney e Bo, che è il barista. Una figura un po' strana quella del barista. Spesso praticamente, non so perché, in alcune puntate non fa finta, proprio non conosce Homer e diventa suo nemico in alcune cose. Per dire, non conosce Homer, cioè, ad esempio, Homer è sempre lì al bar. Praticamente in una puntata è suo papà incacchiato, per dire, d'accordo? Dove Bart fa un fumetto su Homer, sì. Perché lui, te l'ho detto, che ha sempre questi, si incavola in maniera molto plateale, e diventa famosissimo in internet con questo fumetto. Praticamente Homer nella macchina, Bo lo vede e fa: ehi ragazzi, ma quello lì è papà incacchiato, facciamolo incacchiare, cioè come se non lo conoscesse che Homer, cioè, e lui tipo gli sbatacchiano la macchina e Homer fa: ma così mi fate incacchiare di più, dai, ci stiamo riuscendo, tipo così, cioè a volte è proprio, e poi di una malvagità ogni tanto, insomma, questo. Certo, poi sembra quasi la voce di Homer, visto quello che ha fatto. No! Mitico! Fantastico! Praticamente potremmo registrare dei gelato di revolverà in questo modo sugli spacciaserie, praticamente. No? Poi vabbè, tanti altri personaggi, l'amico di Bart Milhouse, i compagni di scuola Nelson, e poi Ralph, il commissario Winchester, Seymour Skinner, la madre, ci perdiamo perché basta, sono tantissimi. Senti, un altro spezzone magari che ci parla appunto di qualche altro personaggio. Bella cosa, te l'ho detto che la maggior parte sono di Homer, però in questa facciamo così. Allora, tantissime apparizioni di musicisti, attori, personaggi incredibili nei Simpson, d'accordo? Non solo i personaggi nei Simpson. A me fa troppo ridere questo qua, non ci posso fare niente. Dalla puntata del casino di Barnes, che Barnes praticamente legalizzano il gioco d'azzardo a Springfield e fanno un casino. Homer è un croupier, praticamente, e Marge gli piglia uno dei, come dire, dei suoi difetti, è il gioco d'azzardo. È ampiamente ricordato da Homer in più puntate. E quindi praticamente Marge non c'è e sta giocando alle slot machine da non so quante mila ore. E quindi sono in casa di notte Homer, Lisa e Bart praticamente. Ma Homer è un grande uomo di casa, vediamo subito. Ok. Che c'è? Lisa, che succede? Ho fatto un brutto sogno. Oh sì, certo. Adesso sdraiati e raccontami tutto qua. So che ti sembrerà assurdo, ma ho sognato l'uomo nero che mi seguiva e ora è nascosto. No! L'uomo nero! Tu incoda la finestra, io prendo il cucciolo! No! Bart, non voglio allarmarti, ma ci potrebbe essere l'uomo nero o uomini neri in questa casa? Ma che succede qui? Oh, niente, Marge, solo un piccolo inconveniente circa l'uomo nero! Ovviamente nulla di tutto questo sarebbe accaduto se tu fossi stata qui ad impedirmi di comportarmi da stupido. Oh, scusami, ho trascorso troppo tempo al casino, d'ora in poi mi vedrete più spesso, scusate. Vuoi dire che mi aiuterai con il costume? Certo, proprio come Steve. Rientriamo. Niente, questa si scopre che Marge ha questo vizietto che l'accompagnerà in maniera, come dire, costante, non più che costante, nel senso che Marge è quella là di solito, Lisa è quella perfettina, la figlia. Marge ha anche i suoi altarini, beve pure ogni tanto. C'è una puntata dove diventano due sbronzaioli assurdi, lui, lei e Homer. L'hanno fatta poco tempo fa. Sì, che vanno praticamente in giro per quei monti che sembrano la Toscana. Io ultimamente ho riacceso la TV. Quando... No, Piero, no, non ti no, fa. No, ti spiego, non è colpa mia. In realtà il mio collega di progetto, lui non riesce a studiare se non ha qualcosa acceso. E quindi accende la TV, a volte a tutto volume. Infatti non riesco a parlargli a volte. Abbassa un pochettino, un cicinì. E quindi lui tiene acceso questa cosa e quindi sempre, costantemente. Infatti sto guardando anche cose terribili come Human, quelle robe lì che veramente sono inguardabili. E tipo la nostra giornata comincia... con un programma sulla TV inglese in cui fanno organizzare un matrimonio allo sposo e si creano tutte delle fantasie. E poi durante l'ora di pranzo, chiaramente restando sempre su Italia 1, ci sono i Simpsons, c'è How I Met Your Mother, quindi capito, diciamo, io mi ritrovo in alcune cose, ah, che bello, finalmente posso vedere qualcosa di decente, eccezionali. I Simpson sono, cioè a me mi sistemano le giornate, la sera sono stanco, mi metto un paio di Simpson e sono rilassato. Io mi ricordo che i Simpson li cominciai a guardarli alle superiori quando tornato da scuola tipo all'1:20, 1:30, così. Era esattamente esatto, a quell'ora. Esatto. Erano a quell'ora, era vedo fantastico. Che molta gente abbia cominciato così. Sì, sì, io addirittura se non ci arrivavo mia mamma mi metteva la videocassetta e me le registrava. C'ho ancora le videocassette con i Simpson registrati. Pensa che all'inizio mia madre mi prendeva per scemo, poi anche lei cominciava a spostare su Italia 1 per guardare i Simpson. Quindi... No, i miei ancora non li guardano, non gli piacciono. Sono ecco, c'è una cosa da dire sui Simpson. Il mondo si divide letteralmente in due. O li amano o li odiano. Cioè non c'è una via di mezzo. Cioè però una volta un mio amico che adesso li ama mi disse, io non me li vedevo perché erano gialli. Cioè io gli dissi, guarda, cioè... di tutte le cose più razziste che potevi dire, cioè le scuse che potevi dare, e lui dice, e prima di Simpson il suo cartone preferito era Braccio di Ferro, cioè un idiota. Braccio di Ferro, il marinaro. Esatto. Io manderei questa pillola velocissima. È uno delle cose caratteristiche di Simpson sono le puntate di Halloween, d'accordo? Questa mi pare sia proprio che una sono puntata... anche più lunghe. Sì, sono multi episodio praticamente, non sono molto più lunghe, di solito sono sempre 20 minuti, 22 minuti, una cosa del genere. Comunque è una delle cose, ci stanno Mulder e Scully praticamente di X-Files e Homer, questo lo possiamo andare proprio, dura 13 secondi. Questo è proprio uno straclassico, una delle, mi hanno detto a detta di molte, la scena più divertente dei Simpson fino ad adesso, addirittura. Ora la sottoponiamo a qualche test. Questa è una semplice macchina della verità. Io le porrò alcune domande a cui risponderà sì o no e lei dovrà dire solo la verità, mi ha capito? Sì. Si è sentita? Cosa? Cosa si doveva sentire? Lo spezzone. No, forse tu non hai sentito perché non hai le cuffie, però si è sentito. Ah, si è sentito. Praticamente sono Mulder che spiega... Le porremo alcune domande. Questa è una semplice macchina della verità. Le porremo alcune domande per capire se, e analizzando il tracciato, capiremo se lei sta dicendo la verità oppure no. Ha capito, signor Simpson? Sì, boom, e scoppia la macchina della verità. Cioè, proprio, stiamo dicendo proprio una genialata. E l'altro episodio è sempre relativo alla macchina della verità, che dura anche questo 13 secondi. E questo, secondo me, questo forse perché lo si conosce meno, mi fa un po' più ridere, perché l'altro è veramente super consumato. E boh alla macchina della verità, che poi era praticamente linkato lì accanto. Questo è veramente... Sì, sì, si sente bene questo. Okay. Sparalo. Ma c'è un burp finale in boh. No, va bene, forse sì, ma io non gli ho sparato. Tutto regolero, ok, signor Badabur. Bene, perché stasera ho un incontro con... un appuntamento. Cena con amici. Cena da solo. Guarderò la TV da solo. Resterò seduto a casa ad attizzarmi col catalogo di biancheria intima femminile o quello di elettrodomestici. Ora le dispiace togliermi questo coso? Non mi merito un trattamento così meschino. Genia, non mi merito un trattamento... quello di elettrodomestici. Insomma... Io non l'ho sentita. Però l'hai visto le immagini mute. Ma vedevo solo una macchina della verità e non capivo niente. Giuseppe, è tornato Giuseppe. Sì, adesso posso anche gridare. Perché mamma ha smesso di tenermi in gabbia. Ha detto, adesso anche con la febbre fuori di casa. E quindi sono tornato. fantastico. Ora, a parte, cioè, il presidente ci sta riprendendo, ma lasciamo. Stai riprendendo nel senso sei arrabbiato? No, ci sta riprendendo nel senso che con la webcam, con la fotocamera. Vorrei dire che questa cosa va nell'archivio ricatti. Ok, ottimo. Cacchio. Io ho tanta paura. Io non puoi ricantarmi per niente, praticamente. Cioè, non... Ottimo, allora povero sì. Me, povero me, povero me. Fa strani effetti l'aeroporto alle persone. L'aeroporto fa cose strane alla gente. No, l'unica cosa che voglio dire è che il nuovo studio fa strani effetti alle persone. Cioè, prima Paccio si è messo con la musica a palla dalle spie a cantare a squarciagola. Adesso scommetto che ha cantato la mia parte intollerante. No. Sì. No. Signori, come lo conosco il mio pollo. Ha cantato la mia parte intollerante, però... Era Audioslave che ha messo a... Show me how to lie, to live. Esattamente quella lì. Show me bene, col gruppo non la facciamo. Allora, sì, ci sarebbe un'altra canzone e poi io metterei questo, un altro spezzone dove Homer, secondo me, è il più grande personaggio del Novecento, praticamente. Ok. 800, 900, 1500, scatole Homer, d'argento. Homer disse una cosa incredibile. Non si può scrivere la parola disonore senza la parola onore. Wow. Cioè, e tu dici, ma di chi è di Kant? È di Homer. Anche senza la parola dis. Cioè, è geniale. Secondo me è geniale. Adesso, dopo questa massima di Homer Simpson... Pensa che lui venne promosso a ufficiale in Marina, dicendo, ci sono domande, e lui disse, scusi, ma la poppa è quella che penso io, promuova quell'uomo. E lui è promosso subito. E lui non capì, no, non ho capito. E dopo questa, mandiamo un pezzo. Musica, musica, cosa mandiamo? A voi Barry White. Barry White, dalla puntata della Festa delle Mazzate. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's been a time that we've loved and we've shared love and made love. Eccoci qui di nuovo dopo Barry White con Can't Get Out of Your Love, baby. C'è una voce baby, che baby, ma baby, attenzione baby. Che viene sfruttato in quella puntata Barry White, sfruttato tra virgolette, perché dato che una delle feste caratteristiche di Springfield è armarsi di bastone i vari cittadini e ammazzare i serpenti che in quel momento passano praticamente, come faceva nonna. Ad esempio, più o meno. Lisa ovviamente dice no, che cosa barbara. Allora, per attirarli via da questa trappola, cosa fa? Fa cantare Barry White e mette i subwoofer, i bassi, a terra, perché i serpenti sono attratti dalle basse frequenze. E allora lui canta questa low canzone frequency. In diretta e tutte i serpenti vanno verso casa Simpson e si salvano. E deve vedere Homer, questo spezzone non lo mandiamo, che si allena a mo' di ninja per niente con queste mazzate, che fa mazzata, mazzata, mazzata, e c'è Marge che fa oh, oh, tipo che è attratta da questo uomo virile che dà mazzate praticamente. Sì, l'uomo virile si sa. Vero, Leo. D'altronde Leo le colpisce così le ragazze. Sì, sì. Mazzata, mazzata. Mazzata è il termine giusto, diciamo. Lui io manderei mazzata, e loro si stendono lì. Sì, sì, dico lì. Solamente mazzata. Ma con questa e cadono tedesco. Tutte ai tuoi piedi. Certo, ma mazzata, nel senso, dalle mie parti mazzata significa molto. Ammazza. Mazzata. Cioè, con due M. C'è le lesioni all'inizio, capito? Cioè, apostrofo MM. Le Champs-Élysées. Povere ragazze. Perché quando ci aggiungi morta ammazzata, capito? Funziona mortadella. Così. Cioè, capisco, però no, mortadella non è bello. Oh, non ho una fame, Leonardo. Ok, non sapevo questa storia dei serpenti che ascoltano la dubstep. Sì. Praticamente, una delle caratteristiche classiche delle puntate dei Simpson, proprio classiche delle classiche, Homer fa una scelta, un'idea, una cavolata, e Marge, poverina, gli vengono i capelli sempre più bianchi. Attenzione, no, primo capello bianco nella 22esima serie, l'ho vista oggi questa puntata, in americano. Aspettate, in forse l'avete detto, ma io non ce l'ho. Quante stagioni 22. Stagioni, ignorante. No, insomma, no, quale chiamano serie? È la 19esima puntata, quante cazzo di volte l'abbiamo detto? Sono dire, 22 seasons. Ah, bravo, vedi? Praticamente quindi è nell'ultima. Nell'ultima serie si vede il primo capello stagione, bianco. Stagione, te l'ho detto! L'ultima serie, stagione, ma season. No, ma perché? Ma no, ma io continuerò a dire stagione probabilmente. Ma, no, ma perché season vuol dire stagione tradotto letteralmente? Ma no, ma perché? Santi se la prende. Hai rovinato tutto. Ma perché ti non devo si può stoppare, mo? Perché dammi un motivo. Io te la spacco con la testa, ma dammi un motivo vero. Ma qual è questo qui? Ma... Boris insegna. Boris, è vero. Allora, praticamente, una in questa puntata Homer fa una cavolata, trova dello zucchero praticamente per strada e incomincia a fare lo zuccheraio a domicilio. Lo zuccheraio. E quindi praticamente per proteggere questo cumulo di zucchero lui ci dorme accanto. Ed è una delle scene, questa puntata, delle scene recitate in maniera eccezionale praticamente da... disegnato. No, è recitato. Devo proteggere zucchero. Ladri dappertutto. La forza deve proteggere la dolcezza. La dolcezza. Homer. In America, primo ottiene zucchero, poi ottieni potere e dopo ottieni donne. Homer! Homer, smetti! Vorrei che la smettessi di sorvegliare questo stupidissimo zucchero, stai diventando paranoico! Oh, è così? Lo credi davvero? Hello! Va bene, amico, dove ha preso lo zucchero per quel tè? Lo ha guantato quando lei ha abbassato la guardia per un centesimo di secondo. E lo rifarei. Goodbye, sir. Visto, Marge? Hai visto? Homer, quando la finirai con questa storia pazzesca dello zucchero? Mai! Mai, Marge! Non posso vivere una vita convenzionale come la tua. Io voglio tutto. Le discese ardite e le risalite stordite. La crema in mezzo. Certo, potrei offendere qualche naso dal sangue blu con il mio incedere vanitoso e il mio odore muschiato. Oh, io non sarò mai il prediletto dei cosiddetti padri della città che schioccano la lingua, si allisciano la barba e parlano di quello che deve essere fatto di questo Homer Simpson. Senti, fa sparire questo zucchero, ok? No! No! Mi hai fatto spaventare. E rieccoci in studio. Questa era, secondo me, uno degli spezzoni più belli dei Simpson. Lo dico per ogni spezzone, ovviamente, manca a dirlo. Cioè, chiaramente Sebastiano è da circa due ore che sta dicendo no, questo è veramente bello, il pezzo troppo bello, meglio. No, mi è scomparso, ma perché io sto Mac non sono cose di usarlo, porca miseria. Ma il Mac è solo per il diavolo. Il Mac è per il diavolo. E quindi Tommaso ci si trova bene. Perché Bill Gates fa le pentole e il diavolo fa i Mac. È certo, era così il detto. Madonna. Intanto il presidente protesta. Questa è anche una delle scene più e dice assurde. Ma cosa cavolo state dicendo? Leccando la mela. Leccando la mela del suo Mac. Leccando la mela. Bellissimo, l'ho capito adesso. E mentre siamo nel fiorfiore delle risate. Pazzia. Io ve lo levo il secondo microfono, sappiate che ve lo levo. Perché? Capito? Poi passa sì, qua. È il mio microfono personale che tu ora stai, ti ho subaffittato e ci puoi parlare anche tu. C'è scritto Piero? Ma ora ce lo scrivo, datemi un pennarello! No, costa troppo. È sul divano, l'ho visto. Siamo senza soldi. La fantastica, la radio è sempre più fantastica. La radio è sempre la radio. Amici. Come dicevano qui nel radio, caca. Siamo tornati. Ah, ecco, stavamo dicendo, questa è un altro classico delle puntate dei Simpson, sono Lisa e Homer che litigano. Lisa e Homer hanno litigato n.000 volte. Ma Lisa è la moglie di Homer? Ma che ignoranza, ma tocca ignoranza! Lisa è la bimba che ovviamente ha il suo modo molto vegetariano-buddista di vedere la vita. Lisa è una persona consumata. È la Lisa. Cosa? Lisa, l'Elisa, bellissima. Questa è una perché battuta. L'ho chiesto? Yeah! È il vincitore del contest. Il vincitore del contest, cose stupide da dire in radio. È Leonardo, non peraltro, il presidente. E io detenevo il premio, Non ci sono premi per tutto ciò. E Leo, per questo, riceverà una tazza virtuale degli Spaccia Serie. Quindi non se virtuale, ti viene di far pipì, virtuale. Devi pisciare in una tazza virtuale, praticamente, ok? Ancora stai esultando. Sì. The Train video per fa un moonwalk fatto male. Ma per caso do you like Train? Questo nel vecchio studio non si sarebbe potuto fare. Vedi perché io adoro questo avremmo studio già nuovo. Finito l'ossigeno probabilmente. Vabbè, insomma, in questo fantastico spezzone ci stanno Homer e Lisa che hanno litigato, perché Lisa praticamente ha fatto saltare, diciamo, il barbecue che lui aveva organizzato, facendo volare questo enorme porcellino per tutta la città con la mela, perché io non so che cavolo gli aveva fatto. Ma da dove è tratto questo episodio? Dalla serie, aspetta un attimo. Che stagione. Ma ti prendo a schiaffi. Come cavolo si fa? Allora, come su. Si fa? Ma cos'è partito? Siamo no, partiti, per siamo vedere in che onda. Stagione è, devo andare nel mio file di testo eccezionale. Nel suo file di testo, ma insomma ci vuole preparazione. Perfetto, non c'è scritto, va bene, sarà non tipo lo sa. Non lo la, sa. La serie. Ok, ascoltiamo questa stagione. Spezzone. Vai. Homer sta cercando il maialino. Lisa, hai rovinato il mio barbecue. Esigo subito le tue scuse. Non mi scuserò mai e poi mai, perché sto difendendo una giusta causa e tu hai torto, torto, torto. E adesso scusami, me ne vado in camera mia. Ora basta, vai in camera tua. Marge, siccome non rivolgo la parola a Lisa, ti dispiace chiederle di passarmi la salsa, per favore? Per favore, Lisa, passa la salsa a tuo padre. Bart, di a papà che gliela passerò solo se non verrà usata su un prodotto di carne. Inzuppere le tue salsicce in quella salsa, compà! Marge, di a Bart che voglio solo bermi un bel bicchiere di salsa come faccio tutte le mattine. Diglielo tu, stai ignorando Lisa, non Bart. Bart, ringrazia tua madre per aver puntualizzato. Homer, non stai non parlando con me, ho sentito quello che hai detto. Lisa, di a tua madre di non scassarmi. Papà, tu con Lisa non ci parli. Bart, va in camera tua. Perché non ti mangi anche lui, papà? Non mi servono suggerimenti da te sulle pietanze brutte a questa barbecue. Nulla sapiente, tutto niente sapiente. Ora basta, non posso vivere in una casa con questo carnivoro preistorico. Io me ne vado di qui. Geniale. Ora basta, vai in camera tua. Non era finito, ora basta, vai in camera tua, perfetto. Questa vita non può più vivere. Allora, adesso proporrei di fare un piccolissimo break. Con una bella... Ah, ok. Con una brioche. Anche come sta facendo il nostro fantastico scass. Non si parla mentre si mangia, ignoranti. Sono d'accordo. Maleducati. Scass, ci dovresti presentare qualcosa a qualcuno? Dobbiamo mandare uno spot, per caso? No, io volevo... un attimo che deglutisco. Deglutisco. Che cosa fai? Deglutisci? Deglutisco. Ah, ok. Dunque, volevo ringraziare innanzitutto dei miei amici che hanno iniziato da qualche settimana una nuova trasmissione in radio anche loro e ci hanno sponsorizzato. Questa trasmissione va in onda sulle frequenze 103.7 in FM, però si sente solo nel sud-est barese, quindi voi non provate, cioè nel senso, se non siete nel sud-est barese non provate a sud-est asiatico. Ma li potete trovare anche in streaming sul canale che adesso sentiremo nello spot. E niente, loro trattano di musica indipendente, per lo più italiana, e, è un bel programma per quanto mi riguarda. E, ma niente. L'hai mai ascoltato? Oppure stai dicendo un no, bel no, programma no, no, no, ascoltati. Ah, ok. Producono anche dei podcast con più ritardo dei nostri, diciamo, quindi almeno su questo Radio Ciclette è avanti, però li producono. Beh, noi abbiamo un podcast quasi in tempo reale, cioè in tempo reale no, ma il giorno dopo più o meno. Se io riesco ad uploadarlo, sì, altrimenti cioè è meglio che vi ascoltano in diretta, perché il podcast vero è quello. E quindi io vorrei salutare i miei amici Gaetano, Anna Chiara e Marica, che conducono questo programma che si chiama Indi per Cui. Manda lo spot. Geniale. Manda lo spot. Ciao, io ascolto musica indipendente. Ciao, anch'io ascolto musica indipendente. Io sono indie intellectual mode radical chic. Ascolto solo alternative rock con venature post-punk, slowcore, dream pop, trip-hop, space rock. Bah, io ascolto solo quello che mi piace. Io ho un sacco di radioloni vintage, ma non li accendo mai. Ascoltare la radio fa troppo mainstream. Io ascolto indie per cui. Indie per cui, è così indie che nemmeno si vede, si sente. Su Radio 103 ogni mercoledì alle 21 e in streaming su www.radio103.tv. Arieccoci, un attimo che salutiamo il nostro presidente, signor presidente. Ciao presidente. Che non vuole scenare con noi perché noi perché puzziamo. Bello. No, non puzzate, puzzo di più io. Dopo una settimana intera di lavoro puzzo gara, più io. Gara di puzza. Ti è piaciuta questa parte di trasmissione che hai ascoltato con, nonostante il lecchinaggio radio-radio? Mi è piaciuta la parte marchetta su marchetta. Ah? Questa è bella, yeah. Solo noi potevamo. Cioè marca da bollo su marca da bollo? No, pubblicità, cioè, regione su pubblicità. Marche su regione Marche. C'è un termine che mi ostinerò a non dire per venire incontro alle persone che ci stanno ascoltando. Salutiamo tutti i non maggiorenni. Ciao, mio fratello. che ci ascolti. Vieni presto, così posso dirlo. Anzi, esci di casa, quando dici che quando sei uscito di casa, dici sono uscito di casa, così posso dirlo. Ottimo. Manda un messaggio sul numero... No, non lo diamo, non lo diamo. Diamo numeri perché non vogliamo stalking. Noi non diamo mica i numeri qui, No, infatti. No, solo lettere. Sette. Ah! Stupore. Ah, prego. Colori anche diamo, vero? Giallo! Giusto, la puntata sui Simpson, che colore volevi dare? Pazzia. Bene. Allora io manderei uno spezzone e poi una bella canzone. Oh, di che cosa parla lo spezzone? Lo spezzone è un altro pezzo di una puntata di Halloween. Ah. E... che, vabbè, parla da solo, diciamo. Parla da solo lo spezzone. Papà, abbiamo fatto una cosa terribile. Avete sfasciato la macchina? No. Avete risuscitato i morti? Sì. Ma la macchina sta bene? Uh-huh. Allora è tutto ok. Arieccoci. E... questo era proprio corto. Sì, infatti me lo sono quasi anche perso. Vabbè, classica cosa. Abbiamo fatto una cosa, papà, avete sfasciato la macchina? No, avete resuscitato i morti? Sì, ma la macchina sta bene? Sì, allora è tutto a posto. Ok, perfetto. Allora, altre cose da dire sui Simpson, ad esempio. Tante cose. Allora, ci sono guest star e ospiti d'onore nei Simpson? Spessissimo. Dai musicisti agli attori agli scrittori, ma infatti la cosa importante da sottolineare è che la versione italiana, quella tradotta, fa molto ridere, ok, ma la versione originale è fa più ridere nel senso che col tempo sono riusciti a doppiare meglio le battute, cioè cosa vuol dire doppiare quando meglio? Tu ascolti, sì, quando vedi Simpson in americano capisci proprio, sono simbolo della cultura, in maniera ironica ovviamente, della cultura. Appena mi giro di 43 milligradi non si sente più niente. Se ti giri dal microfono non si sente, capito? Ma questo è antipanoramico. Tu puoi stare anche un po' più dietro, davvero? No, sì. Sì, mi sento, non mi sento, ok, sì. Però praticamente devi parlare verso il microfono, ok, ma non è molto radiofonica questa cosa. Praticamente è sono un simbolo in maniera ironica della società e della cultura americana, d'accordo? Okay. Quindi un sacco di battute sicuramente le capiscono meglio gli americani, ma soprattutto sono riferite a situazioni o personaggi americani, d'accordo? Di conseguenza, soprattutto nelle prime serie, secondo me, di conseguenza quando li traducevano in italiano cercavano di riadattare la battuta, localizzare la battuta, d'accordo? E spesso non funzionava, faceva ridere uguale, però non era la stessa cosa, d'accordo? E quindi diciamo, non so che stiamo dicendo, sì, è pieno di guest star e di cose, ma al solito dovreste guardare sia la versione italiana, che ovviamente è doppiata in maniera eccezionale, ma anche la versione americana, che a me piace, quella originale, piace veramente. Ora, tantissimo. Ora facciamo la domanda quella cattiva: quali sono i doppiatori italiani della versione dei Simpson? Io mi ricordo sinceramente Tonino Accol, che non è solo il doppiatore, ma è anche il direttore del doppiaggio. Esatto. E di Siracusa, la città da dove vengo. Ecco perché se lo ricordo. Allora non e poi, giusto, Bart è una ragazza, infatti Ilaria Stagno ci dice eccezionalmente Wikipedia. No, tu, allora, Sebastiano, siamo in radio, non vedono ciò che stiamo facendo, si può fingere. Ma bisogna essere sinceri. Io ti volevo far passare per l'esperto vero. No, che invece tu mi cadi così. Addirittura nella stagione 8 l'ha fatto Pino Insegno, vi rendete conto? E poi c'è anche Smithers, che è interpretato e doppiato da Vittorio Amendola. Ma ci sono personaggi assurdi, Kent Brockman, che abbiamo scordato, Lionel Lutz, che è il classico avvocato disperato, mi fa veramente morire. Doppiato da? Da un grande Paolo Bonolis, in un episodio solo, no? Ma molte comparsate, vedi anche la Mondaini, mi pare che ha doppiato una bimba là. E poi, come si chiama? Doppiato Giuseppe? Non lo so, non mi ma ricordo. Come? Pure io voglio doppiare! Ma nel senso che vai lento e ti doppiano in un circuito? Voglio fare il doppiaggio! Ok, va bene. Allora. Qui mi sa che dobbiamo costringere mio fratello da capo a chiamarci per fare, perché mio fratello è un esperto dei Simpson. Ah sì, vabbè, però tanto... Caro no, fratello, io voglio che hai già vinto la tazza, chiamaci! Vabbè, se allora. Matteo vuole chiamare ci può chiamare ovviamente. Ma allora, non abbiamo detto per cosa... Per cosa ci possono chiamare? Ci possono chiamare per partecipare al nostro meraviglioso, entusiasmante e che a molti è mancato quiz di Gli Spacciaserie. Fantastico. È tutto un quiz. Allora, se volete partecipare al quiz degli Spacciaserie, cercate Gli Spacciaserie tutto attaccato su Skype. Ce l'abbiamo attaccato già. Certo. Ma guai, Tommaso attaccato. È veramente un passo avanti. cercate di spacciare su Skype e a questo poi ci contattate, magari ci contattate anche in chat, anche se la stiamo seguendo un pochino poco, lo ammettiamo. O magari scrivete in chat su Skype. Meglio ancora. Aggiungeteci, numerosi. Aggiungeteci e cercateci su Skype, e intanto mandiamo un pezzo e mandiamogli... Io manderei Lisa che canta un bel pezzo jazz, sinceramente, se si può, che è una cosa importante, che Lisa ama il jazz ed è una grandissima sassofonista. Oh, e ricanta insieme a Gengime e Sanguinanti Murphy. Yeah! Come on, Lisa. I got a date with Billie Holiday. Che poverino, cosa ha detto? Che ha un appuntamento con Billie Holiday. Ah, ecco. Insomma, no, hai copiato male, ti manca un H di HTTP. Ma di cosa state parlando, scusate? Del fatto che... Che io sono in radio, non posso vedere cosa state facendo. Ma andiamo anche... Posso parlare con questo accento così, un po'... Puoi parlare tutto che vuoi. Un po' nordico, sì. Ma, e allora... Facite le cose che date a fare, ma cioè, allora, Milano centro, direi, accanto alla Madonnina, più o meno. Sì, sì, sì. Sì. C'entra Milano. C'entra Milano centro. C'entra Milano. Ho paura di quello che sta per... Ah, tu vuoi dire che a Milano è la seconda città più popolata da pugliesi? Era quello. Assolutamente. Bravo. Praticamente, in questa puntata, Homer ritorna all'università. E da buon universitario si crea una bella stanza stile universitario piena di poster carini. Io sto sputando tutto il tuo schermo, caro il mio Tommaso. E soprattutto si fa una bella libreria stile universitario della metà degli anni 90, d'accordo? Vai, buttamela alla grande. Ma Homer, la libreria che avevamo andava benissimo. Già, ma questo è quello che fanno al campus. Del resto non ci costa niente. Ho fregato i foratini in un cantiere edile, sai, cara? Signore, mancano 6 foratini. Allora non si farà l'ospedale, lo dirò ai bambini. È una delle scene più geniali, secondo me. Ma lo dico sempre, ma questa puntata di Homer va all'università, che lui incomincia a fare gli scherzi al rettore, è veramente... Il rettore Peterson, stupido rettore Peterson. Benissimo. Una domanda, Seba. Dimmi tutto. Allora, prima abbiamo detto che ci sono gli spezzoni di Halloween. Le puntate di Halloween. Three Vows of Horror. Descriviamole con un paio di parole. Allora, praticamente, appunto, nel periodo di Halloween, la Fox, quindi, che trasmette allegramente i Simpson, manda questa puntata, appunto, Three Vows of Horror, dove Three House sarebbe la casa sull'albero che ha Bart e Lisa, che hanno la Bart e Lisa in giardino. Uh-huh. Quindi, casa sull'albero dell'orrore. Uh-huh. E, sì, questo già l'abbiamo mandato. Ma ce l'abbiamo ora. Qual qualcun è stata altro. La prima puntata di Halloween trasmessa? La numero 1, si chiama Three Vows of Horror, prima. Cioè, originale, questo è un effetto. Allora, in realtà già ne abbiamo mandata una, quando abbiamo detto, abbiamo raccontato il fatto del ma la macchina sta bene, e allora è tutto a posto. Altre, aspetta, vediamo se riusciamo a procurarle. Questa qui, no, questa l'abbiamo mandata, questa no, Homer ignora Lisa. Questa qui è di sì, questa qua è fantastica. Praticamente dicevo, sono delle puntate speciali dove succede praticamente di tutto. Cioè, muoiono personaggi, vengono sventrati, uccisi in delle storie di fantasmi, thriller, o che si rifanno a dei film dell'orrore. E, ad esempio, in questa puntata, in questo episodio, Homer doveva fare un regalo a Bart per il compleanno, ma se l'è dimenticato. E quindi va a trovare un regalo in un negozio dell'occulto. Ok, e lasciamo così allo spezzone e lasciamo tutto allo spezzone. Vai. Vedete giocattoli? Vendiamo oggetti proibiti da luoghi dove gli uomini temono di mettere piede e yogurt congelato che io chiamo Cogwurt. Cioè, già a me serve qualcosa per il compleanno di me. Ah, forse questo sarà di suo gradimento. Questo oggetto, ma attenzione, porta con sé una terribile maledizione. Questo è male. Ma con esso hai compreso un Cogwurt gratis. Questo è bene. Anche il Cogwurt ha un una maledizione. Questo è male. Ma può arricchirlo con uno sciroppo di suo gusto. Questo è bene. Gli sciroppi contengono benzoato di potassio. E questo è male. Posso andare un... E niente, gli regala sto pupazzetto che poi è indemoniato e... Quindi fa un pochino in realtà il verso a un film famoso. Sì. Che è la bambola assassina. La bambola assassina. Ci sono arrivato anch'io, meno male. Comunque a me piace che contengono benzoato di potassio, pausa. Che questo è male. E... Vai, vai, qua c'è qualcuno che... Ah sì, praticamente questi episodi sono veramente meravigliosi, quelli di Halloween, e succedono delle cose veramente fuori dal normale. E... Devo dire che ci piacciono questi episodi. Senti, e invece altri episodi particolari? Ci stanno episodi che fanno una serie di, come dire, il best of, sì. Praticamente. E infatti il primo si chiama Oh no, siamo già arrivati a una serie di, una puntata dei clip, delle migliori puntate dei Simpson, dei clip del migliori clip dei Simpson, praticamente. Uh-huh. E poi ci stanno puntate totalmente musicali, praticamente. E la prima si chiamano Tutti cantano e ballano. E in quella puntata qualunque cosa succede partiva la gara, era una puntata musical praticamente. Oppure è bella nel post film dei Simpson, questo ovviamente non riguarda le prime 10 serie, nel post film dei Simpson la prima puntata dopo l'uscita del film tutta Springfield è come se fosse stata colpita appunto dalla bomba atomica, cosa che è successo nel film dei Simpson praticamente. Ma cioè, quindi esiste anche un film? Il film Simpson The Movie, sì. Oddio, non hai visto il film? Sì, che l'ho visto. Ah, ok. E devo dire, andatevelo a vedere, è molto carino, molto carino. Ma ecco, quanta attesa c'è stata per il film? Abbastanza, e devo dire che di solito, cioè, nel senso, tutti sono rimasti abbastanza contenti, perché è un'enorme puntata dei Simpson, praticamente, e sono riusciti a fare questa storia sull'ecologia, molto attuale, molto carina secondo me, con Homer che ne fa di tutti i colori, nel senso che passa da essere l'antieroe, cioè quello diciamo che veramente ha fatto una gran cavolata, a essere l'eroe del film. E poi la battuta del film è: Homer, ma questo è il giorno più bello della mia vita. Questo è il giorno più bello della tua vita fino ad ora. Addirittura. È come Bart che fa: papà, ma questo è Homer, ma questo è il giorno più brutto della mia vita. Questo è il giorno più brutto della tua vita fino ad ora. Ok. Allora, io direi adesso mandiamo un altro pezzo. E poi? E poi vediamo se riusciamo ad accalappiare. E poi sarà come morire. Esatto. Beh, io manderei gli Smashing Pumpkins con Zero, dalla puntata sempre Homer Palooza. Ma parte. Hai preso il file sbagliato. Oddio, siamo in vuoto. Vuoto radiofonico. Parte. Dopo un po' parte. È che probabilmente nel pezzo che ora sta per partire c'era un po' di vuoto all'inizio e quindi... Ma vuoto proprio nel senso non c'era ossigeno? Ma bisogna ascoltarli prima i pezzi. No, ridillo perché non avevo ancora preso. Siamo tornati. Oh, ok, bene. Oh, yeah, allora, abbiamo un ospite, yeah. E ora lo chiamiamo. Un ospite, cioè Seba. No. Oddio, sento dei rumori. Che cos'è? Papà, papà, papà, papà, che cos'è? Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami e da dove... In realtà abbiamo chiamato noi, lo so, però... Da dove ti chiamiamo? Pronto? Pronto? Pronto, ci senti? Ci sono troppi pronti, sì. Devi abbassare il volume della radio, come in tutte le radio che si rispettano. Ok, allora, come ti chiami e da dove chiami? Antonio da Pisa. Fantastico. Bravo Antonio, bravo. Ah, sei pronto per il quiz, Antonio? No, speriamo, dipende dal quiz. Allora, Antonio, non l'abbiamo fatto apposta, però oggi le domande sono veramente difficilissime. Ah, ok, perfetto. Non è vero. Allora... se ci hai seguito almeno un minimo in queste 18 puntate, se fai un excursus dovresti riuscire a rispondere correttamente a tutte e tre le domande. Nel frattempo abbiamo un ospite dal vivo. Prego, prego, venga pure. Ciao ospite dal vivo. Dopo ti presentiamo, adesso stiamo facendo il quiz. Un attimo soltanto. Allora, cominciamo con la prima domanda. In quale recente serie TV il protagonista è un assassino seriale che, tuttavia, secondo un codice personale, il codice di Harry, aiutone, uccide soltanto altri serial killer? Ti servono gli aiuti o vuoi rispondere così? Credo mi servano gli aiuti. Diciamo. Annaggia la miseria, non ci hai seguito. Ai ai ai ai ai. Male, male. Allora, io però male. Sarò buono e ti darò gli aiuti. Risposta A, Dexter. Risposta B, Six Feet Under. Risposta C, Dead Like Me. Risposta D, Deadwood. Diciamo C. Sei proprio sicuro? Ma diciamo no. Diciamo di no. Cioè, proprio perché siamo buoni. Non puoi sbagliarmi questa domanda, ti prego. L'aiuto a casa, io faccio la casa. Ok. Lui vive in una casetta, un pentagono, come al solito, come si rappresenta con l'iconografia. L'aiuto a casa normale. Posso dire che il personaggio che rappresenta questa serie... Esatto. Ci siamo? Sì. Ci siamo. Il personaggio che rappresenta questa serie è esiste anche un cartone animato che mandavano su Italia 1... di lui bimbo che aveva una specie di enorme laboratorio, praticamente non so se l'avete visto mai, e lui si chiamava come il personaggio della serie e della serie praticamente. Attenzione, dopo questo ci stanno, come aiutone. Dire, ci stanno i mancini e ci stanno quelli che usano la Dirt. Allora Antonio, okay, questo è proprio, cioè l'ha detto, dai, non puoi sbagliare. Allora, ti ripeto le risposte togliendo quella che non è, che hai detto tu prima. Risposta A, Dexter. Risposta B, Six Feet Under. Risposta D, Deadwood. La C l'abbiamo tolta. Ah, grande. Attenzione, ce l'ha fatta. La risposta esatta. Dexter, complimenti. Per chi non lo sapesse, racconta le vicende di un assassino seriale che tuttavia uccide solo in base a un codice etico, quello che abbiamo detto prima, il codice di Harry. Ragazze dalla quarta in su. Harry è il suo padre adottivo, il quale, intuito il carattere omicidio del figlio fin dall'infanzia, è riuscito a incanalare i suoi impulsi nel modo giusto. Dexter, dunque, uccide soltanto altri assassini seriali o criminali sfuggiti alla giustizia. Bene, quindi la prima con l'aiutone è andata. Ora non c'è più l'aiuto da casa, quindi però regolati. C'è l'aiuto dell'ospite. C'è l'aiuto dell'ospite l'aiuto da lavoro, che sì. Presentiamo. Ecco, abbiamo qui con noi per la prima volta in questo nuovo studio Bernardo. Vieni a salutare, vieni. Ciao, qui Bernardo, al microfono, altrimenti microfono, non ti non si sente. Sente. Ciao, buonasera. È emozionatissimo, dovrei aiutare, quindi non vedere le risposte. Attenzione, la seconda domanda è la seguente. Dopo la conclusione di Friends, uno dei personaggi della serie è diventato protagonista di una sitcom tutta sua. Di quale personaggio stiamo parlando? Ti do gli aiuti. Risposta A, Joey, cioè Matt LeBlanc. Risposta B, Chandler, cioè Matthew Perry. Risposta C, Ross, cioè David Schwimmer. Risposta D, Rachel, cioè Jennifer Aniston. Tittu, tittu, tittu, tittu. Questa è spastica. Tittu. Sì, ci sei ancora Antonio? Sì. Vuoi l'aiuto del pubblico, cioè di Bernardo? Sì, sì, la sento con l'aiuto. Allora, Bernardo. 50-50. No, vieni qua e dai il tuo aiuto. Dai, tu dai un voto, poi lui ti può seguire oppure no. Tu cosa pensi? Dunque, pensaci. La C è sicuramente sbagliata. Ok. La D secondo te può essere Jennifer Aniston? Jennifer Aniston, no. Quanto è buona Jennifer Aniston. 60 che non sono l'epoca. Film, quindi non so di cosa stia parlando. E poi probabilmente sta parlando un po' a caso. La discarta e le altre non saprei. Ok, quindi abbiamo fatto un 50-50 dal pubblico. Abbiamo la A e la B che sono rimaste, se vuoi seguire il pubblico chiaramente, se no fai di testa tua. Quindi Antonio, caro ascoltatore, cosa ne dici? Allora ripetiamo, la A è la A è Joey, cioè Matt LeBlanc. E la risposta B invece è Chandler, cioè Matthew Perry. Anche di questo ne avevamo parlato. Sì, tra l'altro entrambi ora hanno fatto delle nuove serie TV quest'anno, che sono uscite quest'anno, e però noi diciamo subito dopo aver finito Friends, chi dei due, perché abbiamo escluso gli altri... Era proprio uno spin-off di Friends. Sì, sì, era proprio spin-off. Cioè il personaggio rimaneva lo stesso. Esatto, esatto. Quindi Antonio, ti sento muto. No, ci sono, ci sono. Diciamo... Diciamo... No. Come? Rumori strani, cosa hai detto? B, diciamo. Diciamo B? Sei proprio sicuro della B? Cioè io non lo so, però così non si può andare avanti. Bisogna studiare prima di prenotarsi. Il nome per di Homer Simpson è Homer Joy Simpson. Attenzione, l'aiutone. Vabbè, quello non ti preoccupare. Trattore muore sempre. Allora, Antonio, sei proprio sicuro della risposta B? Cioè te le vogliamo regalare, Antonio. Qui ormai è una svendita. È una conferma necessaria oppure... Cerca di...